Prima di cominciare ad occuparmi della piantagione, ero appassionata della caccia e avevo partecipato a molti safari. Ma quando presi in mano la fattoria, misi via i fucili. Vicino a noi, dall'altra parte del fiume, stavano i Masai, nomadi e allevatori di bestiame. Ogni tanto venivano da me a lamentarsi perché un leone aveva ucciso una mucca e volevano che lo ammazzassi, cosa che facevo quando mi riusciva. A volte il sabato, per procurare un bel arrosto a tutti quanti, andavo anche a caccia di zebre sulle pianure dell'Orunghi, con un lungo corteo di giovani kikuyu baldanzosi e ottimisti. Nella fattoria uccidevo quegli uccelli saporiti che sono le pernici e le faraone, ma per molti anni non mi allontanai più per partecipare ad una spedizione. Spesso, però, parlavamo dei vecchi safari alla fattoria. I luoghi dove ci siamo accampati restano vivi nella memoria, come se ci fossimo vissuti per tanto tempo. Un solco lasciato in mezzo all'erba della pianura, dalle ruote del carro, spicca chiaro nel ricordo come i lineamenti del viso di un amico. Una volta, durante un safari, avevo visto un branco di bufali, ben 129, sbucare dalla nebbia del mattino. Sotto un cielo di rame, ad uno, pareva che i bruni, massicci animali come di ferro, con le potenti corna ricurve ai lati, non fossero in viaggio, ma venissero creati là, sotto i nostri occhi, e mandati a spasso per il mondo appena finiti. Avevo visto una mandria di elefanti nella fitta foresta indigena, dove la luce si spargeva in picchiettature e chiazze fra i folti rampicanti, avanzare a passi lenti e misurati, come avessero avuto un appuntamento alla fine del mondo. Pareva il bordo di un immenso tappeto persiano antichissimo, infinitamente prezioso, dove si intrecciavano il giallo, il verde e il bruno scuro. Tante volte avevo assistito al passaggio delle giraffe nella loro strana, inimitabile grazia vegetale, che non parevano un gregge di animali, ma una famiglia di fiori rari dal lungo stelo, giganteschi e picchiettati. Avevo seguito due rinoceronti nella loro passeggiata mattutina, quando, annusando e sbuffando nell'aria dell'alba, fredda da far dolere le narici, parevano due grandi pietre angolari che scherzavano e si godevano la vita nella lunga valle. Avevo visto il leone reale, quando il sole non era ancora sorto e la luna stava declinando, tornare a casa dopo l'eccidio, attraverso la pianura grigia, lasciando nell'argento dell'erba una scia scura, il muso ancora rosso fino alle orecchie. O durante la siesta nel meriggio, quando si riposava pacificamente in mezzo alla sua famiglia sull'erba bassa, all'ombra delicata e primaverile delle grandi acace nel suo giardino d'Africa. Era bello rievocare tutto questo quando le giornate erano monotone da noi e gli animali da caccia grossa erano ancora là, nel loro regno. Se volevo, potevo tornare a vederli. La loro vicinanza dava alla fattoria un senso di giocosità e di luce. Farah, che con il tempo finì per appassionarsi alle faccende della fattoria, non sognava che il momento di ripartire, e come lui lo sognavano tutti quelli che avevano partecipato alle spedizioni. In mezzo alla natura selvaggia avevo imparato a guardarmi dai movimenti bruschi. Le creature che si incontrano là sono ombrose, guardinghe, sanno cogliere di sorpresa, sfuggire quando meno ci si aspetta. Un animale domestico sarebbe incapace di stare quieto, come un animale selvaggio. Gli uomini civilizzati non sanno più cos'è la vera calma e devono prendere lezioni di silenzio dal mondo selvaggio, prima che quel mondo li accetti. L'arte di muoversi con delicatezza, senza scatti improvvisi, è la prima arte del cacciatore, soprattutto del cacciatore con la macchina fotografica. Chi sta cacciando non può fare a modo suo. Deve vivere col vento, coi colori, con gli odori del paesaggio, adattarsi al ritmo dell'insieme che spesso lo costringe a ripetere più volte lo stesso gesto. Quando si riesce a cogliere il ritmo dell'Africa, ci si accorge che è identico in tutta la sua musica. Quello che avevo imparato andando a caccia mi servì poi nei miei rapporti con gli indigeni. Amare la donna e la femminilità è proprio del maschio, come amare l'uomo e la virilità è proprio della donna. Allo stesso modo la gente del nord è attratta dai paesi e dalle razze del sud. I normanni si innamorarono dei paesi stranieri, della Francia prima e dell'Inghilterra poi. Quei vecchi lord, dopo descritti nella storia e nei romanzi del XVIII secolo, sempre in viaggio per l'Italia, la Grecia e la Spagna, non avevano nulla di meridionale nella loro natura. Era il fascino di cose completamente diverse da loro che li attraeva e li faceva restare. Arrivati per la prima volta a Roma e a Firenze, gli antichi pittori e filosofi e poeti tedeschi e scandinavi si inginocchiarono per adorare il sud. Una strana, illogica pazienza verso un mondo estraneo nacque in quella gente impaziente. Com'è quasi impossibile che una donna sia irritante per un vero uomo e come per una donna un uomo non è mai del tutto disprezzabile o da buttare via finché rimane un uomo. Così la gente del nord, dai capelli rossi e dal carattere impetuoso, ebbe una pazienza infinita con i paesi e le razze dei tropici. Dal loro paese e dalla loro gente non tolleravano nessuna bizzarria, ma accettavano con umiltà e rassegnazione la siccità degli altipiani africani, le insolazioni, la peste dei bovini e l'inettitudine dei servi indigeni. Intuivano che nel contatto con una razza completamente diversa c'era una possibilità di comunione assoluta, quasi di identità, e il loro individualismo spariva. I popoli dell'Europa meridionale e quelli di sangue misto non capiscono questa possibilità, la criticano o ne ridono, proprio come gli uomini poco maschili ridono dei sospiri dell'innamorato e le donne razionali e poco pazienti con i loro uomini si indignano contro Griselda. Quanto a me, sin dalle prime settimane passate in Africa provai un grande amore per gli indigeni. Era un sentimento che abbracciava tutti, vecchi, giovani, donne, uomini. La scoperta delle razze di colore allargò enormemente il mio mondo. Come chiama istintivamente gli animali, ma vive in un posto dove non ce ne sono, e solo tardi nella vita viene in contatto con essi. O chi per natura ama i boschi e le foreste, ma entra per la prima volta in una foresta a 20 anni. O chi è nato per capire la musica e la sente per la prima volta solo quando è già adulto. Così è stato un po' per me. Quando conobbi gli indigeni, tutta la mia vita si adattò all'armonia dell'orchestra. Mio padre, ufficiale nell'esercito danese e in quello francese, una volta, giovanissimo luogotenente a Duppel, scrisse ai suoi: «Tornato a Duppel, ho avuto il comando di una lunga colonna. Lavoravo sodo, ma era splendido. L'amore della guerra è una passione come un'altra. Si amano i soldati come si amano le belle ragazze, fino alla pazzia. E un amore non esclude l'altro, come le ragazze ben sanno. Ma di donne se ne ama solo una per volta, mentre i soldati si amano tutti insieme e si vorrebbe che fossero ancora di più, se possibile. Ecco ciò che provavo io per gli indigeni. Non era facile arrivare a conoscerli. Inafferrabili, notavano ogni minima sfumatura. Se qualcosa li impauriva, arretravano in un modo proprio soltanto a loro. In un lampo, come gli animali selvaggi, che al primo movimento brusco spariscono e non si vedono più. Difficilmente si riesce a ottenere una risposta diretta da un indigeno se non lo si conosce veramente. Se provavo a chiedere a qualcuno quante mucche avesse, rispondeva evasivamente: «Quante ti ho detto ieri?». Per la sensibilità di un europeo una risposta simile è irritante, come è irritante per la sensibilità di un indigeno sentirsi fare una domanda così. Se si insiste troppo o si pretende per forza una spiegazione del suo modo di fare, eh beh, si ritira ancora più in se stesso, celandosi dietro una sua fantasia comica e grottesca con cui cerca di far perdere le sue tracce. Anche i bambini piccoli allora sembravano vecchi giocatori di poker che bluffino sempre pur di non rivelare le loro carte. Se si cerca di rompere il loro guscio, fanno come le formiche quando si infila uno stecco nel formicaio, si affrettano energicamente a rimettere tutto a posto, in silenzio, come per cancellare un atto sconveniente. Non sapevamo né potevamo immaginare a quali pericoli temessero di andare incontro per colpa nostra. Io per me credo avessero paura di noi più come si ha paura di un gran fracasso improvviso che della sofferenza e della morte. Ma era difficile dirlo, perché gli indigeni sono dei simulatori eccezionali. A volte, quando si andava a cavallo nelle Shambas la mattina presto, una pernice ci veniva a stramazzare davanti. Si sarebbe detto che avesse un'ala spezzata e temesse di venire acchiappata dai cani, ma in realtà l'ala non era spezzata affatto e la pernice non aveva nessuna paura dei cani. Poteva svolazzare sotto il loro naso a suo piacere. soltanto che aveva nascosto la sua covata lì vicino e voleva proteggerla dai nostri sguardi. Forse, come le pernici, gli indigeni facevano finta di avere paura di noi a causa di qualche terrore più profondo, per noi incomprensibile. O anche il loro modo di comportarsi poteva essere una specie di strano gioco e quella gente tanto restia non aveva affatto paura di noi. I neri hanno molto meno dei bianchi il senso dei pericoli della vita. A volte, durante un safari o persino alla fattoria, in un momento di grande tensione, leggevo nello sguardo degli indigeni che per loro la mia paura era incomprensibile, che fra noi c'era un abisso. Forse, pensavo, la vita è il loro elemento naturale, come per noi non potrebbe esserlo mai. Forse sono come i pesci degli abissi, a cui la nostra paura di affogare parrebbe assurda. Possedevano, pensavo, questa sicurezza, questa abilità nel nuoto, perché avevano saputo tramandarsi una nozione che invece già i nostri antenati avevano perso. L'Africa, fra tutti i continenti, insegna questo, che Dio e il diavolo sono uno, la maestà coeterna, non due increati, ma un solo increato. Gli indigeni non dividevano la sostanza, ma non confondevano le persone. I miei rapporti con gli indigeni sono stati sempre semplici e piani, sia durante i safari che alla fattoria. Eravamo buoni amici. Sapevo che non avrei mai potuto conoscerli o capirli completamente, mentre loro mi conoscevano fino in fondo e riuscivano addirittura a prevedere i miei atti e le mie decisioni. Per qualche tempo ebbi una piccola proprietà a Gilgil dove vivevo in una tenda facendo la spola col treno da lì alla fattoria. A volte, se cominciava a piovere, decidevo da un momento all'altro di tornare a casa. Ma quando arrivavo a Kikuyu, la nostra stazione ferroviaria, distante una quindicina di chilometri dalla fattoria, trovavo sempre qualcuno dei miei servi venuto a prendermi col mulo per accompagnarmi a casa. Se provavo a chiedergli come aveva fatto a sapere del mio arrivo, voltava lo sguardo dall'altra parte infastidito, a disagio, come farebbe uno di noi se uno sordo volesse per forza sapere cosa significhi una sinfonia. Quando sapevano di non dover temere movimenti bruschi o rumori improvvisi, erano molto più aperti degli europei. Non ci si poteva fidare di quel che dicevano, ma in un senso più alto erano sinceri. Il buon nome, il prestigio è molto importante nel loro mondo. Quando si sono fatti la loro opinione globale su una persona non la cambiano più. A volte ci si sentiva molto soli alla fattoria. Nella quiete della sera, quando i minuti scivolano ad uno dall'orologio a muro, sembrava che anche la vita scivolasse via solo per il bisogno che si aveva di parlare con gente della nostra razza. Ma sempre ho sentito la vita degli indigeni silenziosa e coperta d'ombra scorrere parallela alla mia, su un piano diverso. Arrivavano echi dall'uno all'altro. Gli indigeni erano l'Africa in corpo e sangue. L'alto vulcano estinto di Longonot, che si erge sulla valle del Rift, i grossi alberi di mimosa lungo i fiumi, l'elefante e la giraffa non erano vera Africa più di loro, figurette sperdute in uno scenario immenso. Erano espressioni diverse di un'idea unica. Variazioni sullo stesso tema, non un ammassarsi congeniale di atomi eterogenei, ma un ammassarsi eterogeneo di atomi congeniali, come la foglia di quercia e la ghianda rispetto all'oggetto fatto con legno di quercia. Noi, coi nostri stivali e la nostra eterna fretta, siamo spesso una stonatura nel paesaggio. I neri, invece, appaiono in perenne armonia con esso. Quando sono in viaggio, alti, snelli, scuri e con gli occhi scuri, sempre in fila indiana, tanto che perfino le grandi vie del traffico indigene non sono altro che viottoli stretti. O quando lavorano la terra, o pascolano le bestie, o fanno le loro grandi danze, o raccontano una fiaba, è l'Africa che è in viaggio, che danza, che racconta. Sugli altipiani tornano in mente le parole del poeta. Sempre mi è parso nobile l'indigeno e insulso l'immigrato. La colonia sta cambiando ed è già cambiata da quando ci vivevo io. Scrivere con tutta la felicità di cui sono capace le mie esperienze in quella terra e con alcuni degli abitanti delle sue pianure e dei suoi boschi può avere una specie di interesse storico. Capitolo 2. Un bambino indigeno. Camante era un bambino Kikuyu, figlio di uno dei miei squatters. Li conoscevo bene quasi tutti perché non solo venivano a lavorare alla fattoria, ma portavano sempre le capre a pascolare sui prati vicino a casa, sicuri che prima o poi ci sarebbe stato qualcosa di interessante da vedere. Ma Camante non l'avevo mai incontrato in quegli anni, benché vivesse alla fattoria. Evidentemente se n'era stato sempre per conto suo, come un animale ammalato. La prima volta lo trovai mentre passavo a cavallo per la pianura. Stava pascolando le capre. Era la creatura più degna di pietà che avessi mai visto. Aveva la testa grossa e il corpo spaventosamente piccolo e magro. I gomiti e le ginocchia puntuti come i nodi di un ramo. Le gambe tutte, dalla coscia al tallone, coperte di piaghe profonde. Qui, in mezzo alla pianura, sembrava incredibilmente piccolo. Pareva impossibile che tanta sofferenza potesse essere concentrata in un punto solo. Quando mi fermai e gli rivolsi la parola, non mi rispose. Pareva quasi non mi vedesse. Nel viso piatto, angoloso, infinitamente paziente, gli occhi erano senza luce, annebbiati come di un morto. Sembrava non potesse avere più di qualche settimana di vita. Si aveva la sensazione di vedere da un momento all'altro gli avvoltoi, sempre presenti dove c'è la morte, nella pianura, volteggiare in alto sopra la sua testa, nell'aria chiara e fiammeggiante. Gli dissi di venire a casa mia la mattina dopo, volevo tentare di curarlo. Quasi ogni mattina, dalle 9 alle 10, facevo la medichessa per la gente della fattoria. Come tutti i grandi ciarlatani, avevo una clientela vastissima, in genere da 2 a 12 visite al giorno. I Kikuyu sono preparati all'imprevisto e abituati all'inaspettato. In questo sono diversi dai bianchi che di solito cercano in tutti i modi di proteggersi dall'ignoto e dagli assalti del fato. L'indigeno invece considera il destino un amico perché è nelle sue mani da sempre. Per lui, in un certo senso, è la sua casa. L'oscurità familiare della capanna, il calco profondo delle sue radici, egli affronta con grande calma ogni cambiamento. Fra le qualità che cerca in un maestro, in un medico e in Dio, l'immaginazione, credo, è quella che per lui conta di più. Proprio per questo, probabilmente, il califfo Harun al-Rashid rimane il governatore ideale agli occhi degli africani e degli arabi. Con lui non si sapeva mai cosa aspettarsi un momento dopo. Non si sapeva quale fosse il suo tallone d'Achille. Quando gli africani parlano della natura di Dio, ne parlano come le mille e una notte o come gli ultimi capitoli del libro di Giobbe. È la stessa qualità, il suo infinito potere di immaginazione che li colpisce. Di lì nasceva la mia popolarità o la mia fama come medichessa. Durante il mio primo viaggio in Africa, conobbi sulla nave un grande scienziato tedesco che vi era già stato ben 22 volte per studiare una cura contro la malattia del sonno. Aveva con sé più di un centinaio di cavie fra topi e porcellini d'India. Il guaio con i pazienti indigeni, mi disse, non era mai la loro mancanza di coraggio. Di solito non avevano veramente paura del dolore o delle operazioni gravi, ma provavano una profonda avversione per la regola. Per ogni cura ripetuta, per la sistematizzazione del tutto. E questo al grande medico tedesco sembrava incomprensibile. Per me, invece, quando cominciai a conoscere gli indigeni, fu una delle cose che mi piacquero di più in loro. Avevano un autentico coraggio, un genuino amore del pericolo, la vera risposta della creazione all'annuncio del loro destino, l'eco venuta dalla terra quando il cielo aveva detto la sua parola, quello che in fondo al cuore temevano. Pensavo spesso, era la nostra pedanteria. Oppressi dalla pedanteria, morivano di dolore. I miei pazienti aspettavano in una terrazza selciata davanti alla casa. Si accosciavano là, i vecchi scheletrici col petto squassato dalla tosse e gli occhi lacrimosi, i giovani attaccabrighe dal corpo snello, la pelle liscia e gli occhi neri che si erano spaccati il labbro in qualche zuffa. Le madri coi bambini febbricitanti come piccoli fiori arsi che lasciavano penzolare la testa sulle loro spalle. Molte volte dovevo curarli dalle scottature, perché la notte nelle capanne dormivano intorno al fuoco. Spesso le piccole cataste crollavano e qualche tizzone scivolava loro addosso. Un giorno, avendo esaurito la mia riserva di medicinali, vidi che il miele andava abbastanza bene come unguento per le bruciature. L'atmosfera sulla terrazza era animata ed elettrica come nei casinò d'Europa. Parlavano sottovoce, fitti fitti, e quando arrivavo io si zittivano di colpo. Ma era un silenzio carico di possibilità. In quel momento per loro poteva succedere qualsiasi cosa, ma aspettavano sempre che fossi io ad annunciare chi doveva entrare per primo. Sapevo ben poco di medicina, quel poco che si impara ai corsi per infermiera. In 3 o 4 casi fortunati, tuttavia, avevo azzeccato la cura e da allora ero diventata famosa, malgrado tutti gli altri errori commessi. Ma in realtà, se avessi potuto garantire la guarigione a tutti i miei malati, forse non sarebbero venuti più in tanti. Come professionista mi avrebbero apprezzata di più. Ecco, una medichessa molto efficiente della volaia, avrebbero detto. Ma sarebbero stati ancora sicuri che il Signore era con me? Perché quello che sapevano del Signore lo sapevano dai grandi anni di siccità, dai leoni che vagavano nella pianura la notte, dai leopardi che si aggiravano intorno alle case dove i bambini erano rimasti soli, dalle cavallette venute chissà da dove che invadevano, o quando in primavera le piogge venivano presto e abbondanti, tutti i campi e le pianure fiorivano e i raccolti erano ricchi. Così l'efficientissimo dottore della volaia poteva, tutto sommato, essere una specie di estraneo per le cose veramente grandi della vita. Con mia sorpresa, Camante si presentò puntualmente a casa mia la mattina dopo il nostro primo incontro. C'erano altri 3 o 4 malati, ma lui si ritrasse ad aspettare in disparte. Sul suo viso si leggevano già i segni della morte, eppure stava eretto, come se, malgrado tutto, fosse ancora attaccato alla vita e disposto a combattere per non lasciarsela sfuggire. Col tempo si dimostrò un ottimo paziente. Veniva regolarmente e non mancava mai ad un appuntamento. Riusciva persino a tenere il conto se doveva tornare ogni 3 o 4 giorni, il che è abbastanza raro fra gli indigeni. Sopportava le medicazioni dolorose con uno stoicismo di cui non ho mai conosciuto l'eguale. Avrei potuto portarlo a modello agli altri in tutti i sensi se non mi avesse dato una strana sensazione di disagio e di pena. Raramente, raramente ho incontrato una creatura così selvatica, un essere umano così amaramente isolato dal mondo e completamente chiuso alla vita che lo circondava per una specie di rassegnazione fatalistica e incrollabile. Se gli facevo una domanda, mi rispondeva, ma di sua iniziativa non apriva mai bocca, non mi guardava. Non aveva compassione né per sé né per gli altri. Quando un bambino malato si metteva a piangere perché lo disinfettavo o lo fasciavo, sulle sue labbra si dipingeva un sorrisino di disprezzo e di superiorità. Evitava di guardare la gente, non voleva nessun genere di contatti con il mondo che lo circondava. I contatti avuti fino ad allora erano stati troppo crudeli. La sua forza d'animo di fronte al dolore fisico era la forza di un antico guerriero. Nessun male, per quanto grave, poteva sorprenderlo. Con le prove affrontate e la filosofia che ne aveva tratto, era preparato per il peggio. C'era in tutto questo una grandezza e una nobiltà che ricordavano la professione di fede di Prometeo. Il mio elemento è il dolore e il tuo l'odio. Mi arrendo, per me non conta. E su, giungi al massimo della perfidia, tu sei onnipotente. Ma in una creatura così piccola metteva a disagio, scoraggiava. Cosa penserà Dio? Mi chiedevo, vedendo quest'animo in un bambino. Ricordo bene la prima volta che mi guardò in viso e mi parlò di sua spontanea volontà. Lo conoscevo ormai da diverso tempo, avevo smesso il primo metodo di cura e stavo tentando qualcosa di nuovo, un cataplasma caldo consigliato da uno dei miei libri di medicina. Preoccupata com'ero di eseguire alla lettera le indicazioni, lo preparai troppo caldo. Quando glielo misi sulla gamba, premendo con la garza, Camante parlò. Nsabu, disse soltanto e mi guardò con espressione seria, piena di nobiltà. Msabu è una parola indiana che gli indigeni adoperano quando si rivolgono alle donne bianche, ma pronunciandola a modo loro e dandole un suono diverso ne fanno una parola africana. In bocca a Camante, allora, fu un'invocazione di aiuto e insieme l'avvertimento di un amico leale che, vedendoci agire in modo non degno di noi, cerca di farci smettere. In seguito, ripensando a quell'episodio, provai un senso di speranza. Sì, ero stata ferita nelle mie ambizioni mediche e quel cataplasma troppo caldo mi pesava sulla coscienza, ma fra me e il bambino si era acceso il primo barlume di comprensione. Il sofferente nato, colui che si aspettava solo la sofferenza, non pensava di poter soffrire per colpa mia. Malgrado tutte le mie cure, però, non migliorava. Continuai per un pezzo a disinfettargli e fasciargli le gambe, ma ero impotente contro il suo male. Ogni tanto pareva migliorasse, ma poi gli si aprivano altre piaghe un po' più in là e dovetti decidermi a portarlo all'ospedale della missione scozzese. Una volta tanto la mia decisione apparve sufficientemente drammatica e così ricca di possibilità impreviste da impressionare Camante. Non volle andare. Tutte le sue esperienze e la sua filosofia gli avevano insegnato a non ribellarsi contro gli eventi, ma quando lo portai in macchina alla missione e lo lasciai lì in quel lungo ospedale, in un ambiente per lui estraneo e misterioso, tremava.